Nel 2012 il calo complessivo sarà del 5,2% rispetto all'anno precedente. E questo è uno dei dati essenziali del rapporto Federcostruzioni presentato alla quinta edizione di Madeexpo. E se si analizza il quinquennio 2007-2012, le cifre sono imponenti: meno 26,3%, ovvero 126 miliardi di euro in meno prodotti. Oggi il valore dell'intero sistema è di 373 miliardi, con un basso livello di importazioni che si ferma al 3,3%. Ed una buona performance invece per quanto riguarda l'export. Il commento del ministro degli esteri Giulio Terzi. Abbiamo una realtà esterna della nostra economia estremamente vitale, che dimostra una crescita esportativa ancora nel 2011 attorno al 10%, per quest'anno un'ulteriore crescita. Nel 2011 le esportazioni nel comparto hanno raggiunto i 54 miliardi di euro, pari ad un terzo del valore complessivo. Andamento di segno positivo atteso per l'anno in corso e previsto anche nel 2013. Irene Privitera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.